macchie di sangue nero che emano la tua costituzione. E adesso il corpo freddo della democrazia è morto. Dentro un tribunale il suo legale lo ha sepolto. Scattano le indagini, chi immagini sia stato? Tutti quanti come vergini innocenti del reato. Sarà stato lo Stato a macchiarsi di questo delitto, come per Aldo Moro ucciso da un tacito editto. Il killer tra la gente sarà chi vuole il ponte, solo per scapparci senza darci le impronte. Sarà stato un poliziotto nella folla del G8, comandato da un bigotto che l'armata l'ha corrotto, usando l'ignoranza come un'arma del delitto. Nasconde l'evidenza e la devianza del conflitto. Sarà il precario che per campare ora ruba, oppure scemi strade dalla giubba esce la roba. Sarà chi scombece i salari troppo bassi, non come i deputati leghisti di Umberto Bossi. Sarà stato chi è imbrogliato, ha camuffato ogni tuo voto di ogni nuoto con la falsa informazione. Non c'è meritocrazia, è morta la democrazia. Dentro questa oligarchia vuole raccomandazione. Troppi indiziati tra politici e assassini, ma qui la libertà non è per i clandestini. E adesso al funerale della democrazia vanno a bacchettare pure i fascisti come Alemanno. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione. 60 anni fa l'avevano decisa, avevano dettato regole per la giustizia, risorgendo da un paese che rimane alla milizia, pensava solo al capo, alla sede di conquista. Tutto che sembrava a posto, da tempo qualcosa si è mosso all'improvviso, c'è tornato addosso. Ad osservare questa situazione sono scosso, sull'orlo del collasso dimmi dove sta il progresso in questo. Mi sento perso, vedendo uomini al potere, ma tutti bene lo sappiamo meritano le galere. Parlano di democrazia, contro di noi ci sta la polizia, ci scappi morte cose sì. Io tento esprimere la mia idea su dei fatti, ci accusano di terrorismo, rileggi bene gli atti. Un atto vile da parte di corrotti, e noi poveri matti a prenderla come mignotte. Ingiustizia sparsa per tutto il paese, uno Stato che legifera e noi a farne le spese. Basato sul lavoro è il mio diritto, non ho contratto per il mio salario, ho detto tutto. Non mi dichiarerò sconfitto ma deluso, pensando ai sacrifici di chi lottava a pugno chiuso. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione. Ha visto ciancere innanzi, facce fause, ma sì, un pezzo in mezzo s'ammazza e se è connuta, ma sì, il nascio bacio in Giuda, a gente canzeputa, cazzo e mazze, ma pure pagava cute in Italy. In Brasile, chatta chi, guante site e ST, capita vatte l'han cupita, qua catta poche vita, ma se spiccia e che scucia, e piccia la stamiccia, a soffine incomincia picchia nuda, volesse una camicia mise sopra, ma resta qua potesta meno scute, chatta la commanna scupa, ridi tu dai, coma tupa, ragiona, vedi da fare lo stesso, con ciare chi dì che dissero si c'è, da bocca domenisce allora è, più brutta di cazzotte notte e notte in già questura, allora, da lama e una pala di gente che campa a tallare, già ne conto una parecca vista chi essere, ma la sotti, sei belle peste che ormai ciancere morti sono lacrime pessi. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione. Macchie di sangue nero firmano la tua costituzione, e ad essere sincero le hanno dato ormai l'estrema unzione.